Friuli nel mondo, 254esima trasmissione dedicata agli emigrati. Leggende natalizie. È diffusa ormai nell'aria l'atmosfera caratteristica del Natale. Da alcuni anni stampa, radio, televisione, apparati stradali, iniziative commerciali ci danno, a distanza di settimane, la sensazione di essere già alla vigilia della dolcissima fra le feste cristiane. Non è fuori luogo, quindi, se oggi, cari emigrati, dimentichi delle miserie della vita, in uno struggente desiderio di bontà, di benevolenza, di fratellanza umana, ci lasciamo trasportare, con l'anima ingenua di fanciulli, nel mondo della leggenda ispirata alla festività del Natale. Di Dolfo Zorzut, cormonese, ascoltate L'Is Culumbutis di Betlem. Le sozzere, il soreli le latte al suo convent, e l'ai ardagnot al scorzize pataviele e a bugadis all'ul di studà labore. Di qua e di là a cimie qualche stele. Strax, un ompe e une femmine entrin in tune grotte di une mont d'ogne Gerusalem. Che femmine aia sulla muse un no sai c'è di gionde, di malincunie. Rit che anime tal sen. Ie la Madone, che sint che li speraulis dall'agnul son veris. Ie sa che le parnasi il Signor, e ie contente parchist, ma gi displas che qui sace tant che ha di patì par lui, e pocimut la e dinassi che spuor bambin nut e crut, cence venuie par paralu dal fred che al tormenterà che smanutis nininis che il chiavut d'utrizzò. E pensant che ie une puore femmine, aia di doventà l'amari dal Signor, gicole une lagrimute, iù sulla ponte dal suo pit strac. In quel, assin dos colombis, che passin sul suo chiaf, in via di sta grote. Alza già il Signor ce calfas. Ie, a entra in ta grote, poi il suo chiaf, sunt un cioc di stale. Su in alt, assin il glu glu glu, di che sdos culumbutis. Ah, culumbutis benedetis, u altri sares lis primis che s'interessa vai el salvator dal mond. Glu glu glu, risquind in che es. Sant Giusef, strac al duarza. Ma la Madone i antimò dismotte e pense. Che sdos colombis si metin a sberlà tanta fuart che il glu glu glu che Sant Giusef al si dismov e plen di paure al cicchiale a tor, parvio di salevizi in qualche pericol. Ma invece, tut content, al viot calena su tel bambin Gesù. Svel lui a lui chiape tal braz e al fa sparparà che puore chiar dal fred. Le un scur di cimiteri, ma che scolombis in tun colp adovente in lusintis come doi sorei e la grote dovente clare come ne giornate di avril. La Madone lo inveluzi in tun peciot, ma che il blicut non rive neanche a taponare la pansute e il puer bambin al vai di fre. Glu glu glu glu glu, a sberlin che sdos culumbutis e plombin sul bambin e a planca plank si giavin col becut li spinutis. Li sdiavin e li spoin biel biel sul quarb dal bambin che cumò tal chialdut a riduzze di gust. Ma che scolombis non iam plui li splumis e tremintan di fre. La Madone, drindulante il suo bambin, li sviot, a da un chialon al bambin come par preagi alt. Quel al mof li smanutis. Li sculumbutis, in grisignidis, a si sintin accresi li splumis, sintin a tornar chialdut al quart. si chialin l'une cu l'altre e viodin che ian un vestit plus blanc dal zi, plus blanc da neve che l'us vie pagnot sulla mond vicine. I siei voi son diventati russuz e plus ninins di prime. Il signor agli avarut che su loro accrescessin gli splumis blanchis come la neve, parce che lui le nasut al tim da neve e agli ha fa doventai siei vorros, parce che lor lui han scaldat. Cussi, gli sculumbutis blanchis son che i uciluz che svolin perdut e mostrin che si deve ve compassion di che i can di bisogne e che il signor al sa premiai bois. È della scrittrice Novella Cantarutti di Navarons, già a voi nota per la delicata sua poesia, questa liende che ora ascolterete. Scur e l'usor. E io usconterai la liende dal pitor calvevi voi di studaz. Parce che qualche volta al succed così, al poete si smamisce il cerviel e non sa più dopralis per aulis. Al musicant si sturnissin di sorelis e non sa più ascoltà di sos notis. Al pitoc si crevin gli sgiambis che lo portavin a cirì. A quel pitor i voi si erin di studaz. Assemeavin dos lampidutis di cristal celestin cence paver. E allo leve pitura une madone che viveve dentri come un sium, une madone dolce e lusorose, dimetile in tune glesiute insom di un emon. Il pitor agliere sta in tune chiase irrimite, un tune massarie viele che lava in denante in daur cence fa si sentì usì a planchin par che non si dismovesta al fantat la brame di lato orcula in al pareve che tutta il dormis te chiase dal pitor aliator ucei gris e cialis avevi un chiantastri mi. Ma lui agliere sempre dismot, lui dismot che mai in quel tasè di creaturis. Lui agliere plui viv di tutti in quel mondo di studà, cui siei voi di studaz. Viv di non sentì la corse dal tim che restava come bevù da quel torment si bricompagn tegnò dall'om che non sperava plui lus. Al veve di pitura une madone per un'eglesie poiada insom di un emont. Ulis mans in bramidis e li spalis in crosadis, il pitor se chialave vivi dentri. Poi si drecciave su, al si distirave come le quarde di violin, al maladive, cula boccia il signor che aveve di studazzi voi, prima che alves potut buttaiù sulla bre, la muse de so madone. Inchegnot il pitor non gli era bon di dormì. I glons di tutti gli schiampanis desvilis a svolavi in palaiar glazzat. Ogni glon gli era un sgriso, un sburt. I pareve che lo schiasassi in cai là cence padin e al crustavi dint, al strenzeve gli smans, al clamave la muart. Po al sinti un tutte puarte. La muart. Un altri tu e un evos. Viarzimi, creature di Dio. Cusestu. Viarzimi, copolsi. Polsà. Qualchidun al sperava di polsà in che gnot spiritade. Il pitor al si muove. E iere, une femmine, zovine tevos, e strache tal pass. si sentà sulla banchia ed ogni il fu denando al pitor. E veve di essi plene di fret, e che il sot rimà come un fros di garbe al calmare la tempiesta da l'om che non lo sa venanti e fevelà. Dopo un piaciuto, al tirafuro nevoso rusine. A stufan, chioliti talarmar, là. Alla sint movisi, chioli glutì. Ui sei tu, che tu vas besole, dignot? O vendi lontan, ma cui sei tu? O hai un fi caladinasi, e tu c'è astu? O non vi odi stu femmine? Ti vio, quas l'anime inglaviade, ma sin c'è danzi si chiampanis, sclarissiti creature, che gli l'agno di Dio che ste chi. Il pitor si tirà d'ogni die, i correve fu pa ignarz, ma lo leve chiapale che femmine che vive in dimendi schiampanis, e strenzi i braz finché si crevassin, par rompi quintri di ie tutto il disdén. E invece, i vini su un crop di lacrimis. Altacava i e acconta, i sciei voi di studaz, la somma donne che non sareis mai nassude. Allora ie, e poi al chiafte smans di lui. Intor al simpia un mar di luz, e i voi dal pitor si illuminari. Come stupidit, al dismontate banche, al brincata al canton i pinei e la breute, al messe dai colors, sulla bre e nasse la madone dolce e lusorose, come callaveve sempre bramade. Poi al colà indurmiti. La pellegrina nulla salì, te stanziute, anch'imo inneade. Solus. Biel dormin, il pitore alla viodeve muovi pastrax vie per strade, col soffrutin platat. E tornave la Madone, tegnò di Natal, appoialu tal mon. Nello spirito della nostra tradizione, a voi tutti, cari fratelli lontani, che vi apprestate a rivivere in nostalgia il Natale in Friuli, l'augurio più affettuoso. Buon Natale! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.